Noi ci diamo in ciabatte, noi beviamo, fumiamo in ciabatte, ci scoppiamo le frate in ciabatte, compacchiamo le frate in ciabatte. Schiacciamo le merde con le vostre ciabatte, beviamo 4 litri e ci scoppiamo le plate. Schiacciamo le merde con le vostre ciabatte, fumiamo 4 bong e ci svegliamo in un camper. Mi sveglio in un camper ogni mattina, dopo che fumo 100 bong più di prima. Mi sveglio nel camper insieme allo zio Mello, torno a casa distrutto, non sono bello. Sono il contrario dell'amico di tuo fratello, sono quello che va in giro cercando uno spinello, quello con la bottiglia di Ceres bucato come Tevez. Fett MC sano non si vede. Schiacciamo le merde con le vostre ciabatte, beviamo 4 litri e ci scoppiamo le plate. Schiacciamo le merde con le vostre ciabatte, fumiamo 4 bong e ci svegliamo in un camper.